una lettera aperta per sollecitare ancora la verità sulla strage di Via D'Amelio. La scrive Salvatore Borsellino alla vigilia del 15° anniversario della morte di suo fratello Paolo e di 5 uomini della scorta. Chiedo perché non sia stata disposta la bonifica e la zona di rimozione in Via D'Amelio, elenca Salvatore Borsellino. Chiedo i motivi dell'archiviazione dell'inchiesta relativa ai mandanti occulti delle stragi. Chiedo di non archiviare, se non è già stato fatto, le indagini relative alla sparizione dell'agenda rossa di Paolo. Da quell'agenda Paolo Borsellino non si separava mai, lo racconta la moglie, Agnese Piraino, che ricorda: sono sicura che l'avesse con sé anche il giorno in cui fu ucciso. Un diario molto importante, perché Borsellino vi annotava ogni dettaglio sulle trame che avrebbero portato alla strage di Capaci, 56 giorni prima. L'agenda rossa, il 19 luglio 1992, doveva essere nella sua borsa di pelle, invece in quella borsa furono ritrovate solo le chiavi, le sigarette e poco altro. Ma quella borsa, quella mattina, fu portata via dalla scena della strage per un paio d'ore e poi rimessa al suo posto, nell'aula del magistrato. In un fotogramma delle riprese girate poco dopo l'esplosione si vedrebbe un giovane capitano di polizia, quella borsa in mano. Uno dei misteri su cui si indaga e su cui Salvatore Borsellino chiede chiarezza e giustizia.